Sudafrica 2010, i mondiali in diretta. Buongiorno da Johannesburg e da Dario Ricci. L'Argentina di Maradona che vola agli ottavi, la Francia di Domenech, vice campione del mondo a un passo dall'eliminazione, l'Italia di Lippi nelle mani di Federico Marchetti, il portiere del Cagliari chiamato a sostituire Buffon. Partiamo proprio dal ritiro azzurro di Centurion, dove dopo l'esordio col Paraguay le speranze sono tutte nelle mani di Marchetti, che partirà titolare domenica a Nelspruit contro la Nuova Zelanda. Sì, diciamo che il debutto vero e proprio è stato l'altra sera. E a inizio secondo tempo sapevo comunque che Gigi aveva avuto un fastidio e ero diciamo in preallarme, quindi mentalmente mi sono preparato. Adesso sono stati questi giorni, la sto vivendo bene, anche perché abbiamo fiducia, sappiamo il nostro valore e sono convinto assieme ai miei compagni di poter fare una buona partita. Nessun confronto però con Gigi Buffon, che resta il numero uno al mondo, spiega ancora Marchetti, che il tantam di mercato dà comunque vicino proprio alla Juventus. Gigi è, come qualità è completo in tutto, se no non sarebbe il numero uno al mondo. Io sono un portiere diciamo più muscolare, esplosivo, che fa comunque della forza la propria caratteristica, diciamo. Poi sulla Juve penso sia il sogno di tutti giocare in una grande squadra, questo è fuori dubbio. Però poi da lì a parlare di altre cose ne passa, diciamo. Tra le gare di ieri da applausi l'Argentina di Maradona, che liquida 4-1 la Corea del Sud nello scontro al vertice del gruppo B. Tripletta del bomber del Real Madrid, Higuain. Lieve infortunio muscolare per l'interista Samuel, sostituito dal romanista Nicolas Burdisso. Credo abbiamo fatto la partita più semplice noi, no? Perché la carta era una partita difficile, e loro avevano vinto la prima partita. Noi avevamo giocato bene, avevamo fatto valere il nostro potenziale davanti e abbiamo fatto bene. Messi, Tevez, Agüero, un attacco veramente perfetto anche oggi. Sì, perfetto, e manca anche Higuain, anche Palermo. Noi dobbiamo stare attenti dietro e lasciare giocare davanti. Esordio anche per il centrocampista della Fiorentina, Mario Bolatti. Una grande partita, abbiamo fatto una partita molto bella, abbiamo giocato bene tutti i giocatori, però siamo bene, no? Tranquillo e piano piano. No? Come ti sei trovato in campo, anche se per pochi minuti? Benissimo, benissimo, molto felice, no? Contento perché primo minuto in un mondiale e molto felice. No? Tra le grandi siete quelli che avete impressionato di più, può sognare il mondiale questa Argentina? No, tranquillo, adesso tranquillo, partita a partita. È sempre più l'Argentina di Maradona però, in campo e fuori, Diego con la sua personalità è l'anima di questo gruppo. Sì, è una persona che contagia, no? Contagia a tutti noi, ma noi siamo una squadra che mostriamo giorno a giorno che siamo fortissimi. Nell'altra gara del gruppo B, prima vittoria nella storia del mondiale per la Grecia, che in rimonta supera 2-1 la Nigeria. Gol di Huce, Salpingidis e Torosidis, ma decisive sono la giusta espulsione di Keita e l'errore del portiere Eneyama sulla seconda rete. Piange invece la Francia, che per il gruppo A, Polokvane, è battuta 2-0 dal Messico in rete nella ripresa con Hernandez e Blanco sul rigore. Francesi quasi fuori. Nell'ultima giornata infatti si affrontano Uruguay e Messico, prime a 4 punti, e transalpini e sudafricani, fermi a quota 1. Oggi per il gruppo D torna in campo la Germania, che dopo aver travolto l'Australia affronta alle 13.30 la Serbia, all'ultima spiaggia dopo il KO col Ghana. Per il gruppo C alle 16 sfida tra Slovenia e Stati Uniti. Slovenia è un passo da una storica qualificazione e grazie anche a molti giocatori ben conosciuti dalle nostre parti, come ci ricorda Andrei Milkovic, giornalista del quotidiano sportivo Equipa. Come gli italiani conoscete già tanto bene, c'è un portiere fortissimo, Handanovic, udinese. In Slovenia crediamo che può fare anche il grande salto, andare in un club anche migliore, anche più grande. C'è anche una difesa discreta, una difesa che può giocare anche molto bene, con molti giocatori esperti a centrocampo e un buon attacco. Zlatko Dedic, anche lui conosciuto dall'Italia perché ha giocato per Empoli, Parma, anche Frosinone. E poi c'è forse nostra grande star, Milivoje Novaković, un attaccante completo secondo me, che può fare male a chiunque. Alle 20:30 tocca all'Inghilterra di Capello, che dopo il pari all'esordio con gli statunitensi cerca i punti qualificazione contro l'Algeria. E per ora da Johannesburg è tutto, ancora l'augurio di una buona giornata.